3, 2, 1. Professor Rullani, lei ha detto espressamente che bisogna rinnovare il Made in Italy. Che cosa vuol dire dal suo punto di vista? Vuol dire mettersi in mente che ormai l'economia del mondo sta cambiando e noi dobbiamo trovare un nuovo posto dentro questa nuova economia. Allora, il nostro Made in Italy ha alle spalle 30 anni di successi, ma è nato 30 anni fa come idea. Allora, il punto chiave di questa trasformazione qual è? È che dobbiamo avere in mente che nel mondo corrono più le idee dei prodotti. E cioè, noi abbiamo sì bisogno di qualcuno che poi faccia la produzione di materiali, ma prima di tutto abbiamo bisogno che quella produzione serva un'idea e che l'idea abbia, come dire, anticipato nel tempo il bisogno di quel prodotto, abbia creato una domanda, abbia costruito dei moduli, dei linguaggi che danno valore a quel prodotto. D'altra parte, se questi prodotti poi cominciano a farli, che so, in Cina e costano 5 volte meno, noi abbiamo bisogno di giustificare il nostro costo e il nostro reddito superiore, trasformando, diciamo così, quel prodotto in un portatore di significati che sono i nostri. Quindi la creazione di significati, la smaterializzazione, diciamo, è un primo elemento importante di questo nostro modo di produrre. La seconda cosa importante è le reti globali, cioè noi abbiamo bisogno di trasformare i sistemi produttivi che sono nati locali, salvo l'esportazione, in reti globali, cioè che comprano nel mondo idee, materiali, semilavorati, componenti e che, come dire, generano valore aggiunto qua sulla parte nobile della filiera, che è quella della capacità poi di vendere al consumatore finale dei significati o una flessibilità o una creatività di cui lui ha bisogno. Il Nord-Est si muove, lei ha detto, e però bisognerebbe capire da dove va, verso dove va e in quali settori si dovrebbe muovere secondo lei. Ma io credo che il Nord-Est, diciamo, si muove perché è una società, come dire, debole. È una società debole che quindi non resiste alle difficoltà e si adatta, è costretta in qualche modo, non lo fa per virtù il fatto di muoversi, ma il fatto muovendosi scopre cose nuove. Allora, per esempio, in questa crisi noi che cosa scopriamo? Scopriamo che i nostri vecchi mercati non comprano più le nostre cose e quindi siamo così a trovarne dei nuovi. Scopriamo che certi prodotti li fanno i cinesi, come dicevo prima, e noi non li vendiamo più quei prodotti e quindi siamo così a trovarne dei nuovi. È questo stimolo per migliorare quello che c'è che è l'elemento fondamentale. Naturalmente in questo stimolo dobbiamo metterci anche il fatto che tutta una serie di settori in passato sono stati trascurati. Cioè, noi dobbiamo anche fare qualcosa nei settori nuovi, non possiamo solo rinnovare i settori che già ci sono. Ma proprio perché il Nord-Est è una società, diciamo, debole, come lei l'ha definita, può essere di nuovo modello anche in questa crisi che stiamo affrontando per altre realtà? Certo, guardi, le cito per capire cosa vuol dire società debole, le cito quello che dice un sociologo, Granovetter, che studia le reti e dice: le reti vivono e sopravvivono e sono importanti perché hanno la forza dei legami deboli. I legami deboli hanno una forza straordinaria perché appunto sono flessibili, sono adattivi, c'è l'interesse di chi ha i legami deboli a riprodurli, a rigenerarli. Se noi avessimo lo Stato che in qualche modo ci garantisce tutto, noi saremmo tutti seduti. Se invece ogni volta dobbiamo rinnovare le ragioni per cui gli altri si occupano di noi, siamo tutti attivi e ci diamo molto da fare. E quindi la debolezza è una forza, non è semplicemente, diciamo così, una condizione che fa subire la forza dell'altro. È uno stimolo a essere attivi, imprenditivi. In fondo la società del futuro è una società imprenditoriale, dove tutti si prendono dei rischi, dove tutti, anche i piccoli, anche le persone, le famiglie, si danno molto da fare per inventarsi qualcosa di nuovo. E io credo che qui, proprio perché c'è questa rete diffusa, c'è la forza dei legami deboli.